Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Allora, non si sono ancora placate le polemiche o quantomeno le perplessità sull'introduzione dell'obbligo ai fini della compravendita di un immobile della certificazione energetica, che ecco pronto a scattare, presumibilmente dal gennaio del prossimo anno, ma non è ancora una data certa, l'obbligo di un'altra certificazione sempre ai fini del trasferimento oneroso di una proprietà. Parliamo della certificazione acustica. Molti di voi hanno già letto di questo tema, ma sui giornali si sono affrettati a scriverci proprio per chiederci di affrontare questo argomento a Salva Danaio, anche perché il rumore è causa di un certo grado di conflittualità fra condomini, fra vicini di casa. Attenzione, la norma di cui parliamo questa mattina, o il complesso di norme, non interviene sul vicinato molesto e rumoroso, però magari ci può aiutare a capire cosa fare per proteggere l'abitazione se abitiamo a ridosso della metropolitana o della stazione ferroviaria. Comunque, l'obbligo della certificazione acustica, come vi dicevo, non è ancora stato definito da una cornice legislativa precisa, ma dovrebbe essere introdotto da un provvedimento atteso in autunno, che recepirà la cosiddetta norma UNI 11367, vi do già qualche parametro tecnico, che l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha predisposto. La classificazione acustica, dunque, di un'unità immobiliare, sia per un appartamento che per un'abitazione monofamiliare, diventerà necessaria. Allora, cosa vuol dire, cosa comporta tutto questo? Stamattina cercheremo di capirlo con due esperti, un esperto tecnico, un esperto legale. Do il benvenuto all'ingegnere Matteo Borghi, responsabile acustica dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Benvenuto a Salva Danaio. Grazie mille, buongiorno a tutti. E buongiorno anche, benvenuta l'avvocato Andrea Giancristofaro, avvocato invarese, che ci aiuterà a capire il, definiamolo così perché proprio con lui l'ho definito in questa maniera prima della trasmissione, il ginepraio legislativo che riguarda, che disciplina questo tema. Avvocato, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Allora, naturalmente microfoni aperti alle domande degli ascoltatori. 800 24 0024 il numero appunto per poter intervenire se siete anche appassionati alla materia. Adesso, a prescindere dall'obbligo che arriva di allegare la certificazione acustica al rogito, può anche essere che molti di voi siano sensibili all'argomento per altre motivazioni, quindi stiano magari pensando di costruire una casa nuova e vogliono farla secondo questi nuovi standard appunto proprio acustici. Allora magari possiamo orientarli anche in questo senso. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Visto che siamo con un pochino di ritardo, stamattina vi do rapidamente la borsa, ma i temi li avete già sentiti nel giornale radio. Oggi le borse europee viaggiano al ribasso, Milano guida i cali, -1,34% sul FTSE MIB, ribasso di un punto a Parigi, Francoforte -0,7%, Londra -0,35%, l'euro continua a volare sul dollaro, siamo ormai a ridosso di 1,34 e qua le motivazioni della debolezza del dollaro sono tutte riconducibili ancora alla politica espansiva della Banca Centrale Americana, che verrà mantenuta su questi livelli ancora a lungo, ha detto ieri sera la Federal Reserve. Tra l'altro, questo dollaro così basso fa volare l'oro a nuovi record, stamattina a $1,290 l'oncia sulla piazza di Hong Kong. Milano, i migliori titoli, Mediolanum +3,79%, c'è uno scatto improvviso del gruppo guidato da Ennio Doris, segue A2A +1,61%, Mediobanca +1,32%, perché ieri il gruppo ha promesso il ritorno al dividendo agli azionisti, Buzzi +0,98%, Fiat in discrezioni sulla possibilità che possa vendere la società appena nata dallo spin-off industriale, quindi la divisione auto, ma tutti smentiscono. Fiat adesso in borsa scende molto Unicredit, -3,16% dopo il drammatico giorno di ieri, appunto, in cui si sono consumate le dimissioni di Alessandro Profumo, amministratore delegato da 15 anni di Piazza Cordusi. A questo punto il mercato si interroga sul futuro del management del gruppo. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi, parliamo della certificazione acustica, sentiamo di che cosa si tratta. Dimostrare di avere una casa con le carte in regola diventa sempre più importante e richiede sempre maggiore attenzione. Oltre agli attestati di agibilità, efficienza energetica e conformità catastale, infatti, dal prossimo anno sarà obbligatorio anche procedere con la classificazione acustica delle unità immobiliari, una sorta di pagella del rumore regolata da una norma resa pubblica il 22 luglio scorso e che verrà recepita da un decreto legislativo atteso per quest'autunno. Se per la certificazione energetica sono stati previsti 7 livelli di classificazione dalla A alla G, in questo caso lo schema prevede 4 scale di valori e in base alla bozza di decreto attualmente conosciuta saranno dichiarate conformi le classi dalla prima alla terza, mentre gli edifici di quarto livello saranno considerati fuori dai requisiti minimi. Inoltre, mentre il certificato energetico può essere redatto sulla base di calcoli, quello acustico necessiterà di un collaudo, effettuato in tutti i vani dell'appartamento da parte di un tecnico competente. Di conseguenza, l'impiego di personale specializzato e di costose attrezzature renderà decisamente più elevati i costi per questo tipo di certificazione rispetto alle altre. L'obbligo di questa certificazione si applicherà a tutti i tipi di edifici, ad eccezione di quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Sono previste indicazioni specifiche per alberghi e ospedali, con un'attenzione particolare alla privacy necessaria, in questi casi, tra camera e camera. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Allora, io comincio con l'avvocato Gian Cristoforo, proprio per fare subito un po' di chiarezza sull'entrata in vigore o meno di questo presunto obbligo a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, avvocato, perché in realtà, dato il ritardo con cui il legislatore si sta muovendo per adeguarsi a questa norma dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è abbastanza presumibile pensare che ci sarà qualche slittamento. Allora io lo dico anche agli ascoltatori che hanno già fatto magari qualche compromesso per l'acquisto di una casa, che magari andranno a rogitare a gennaio, a febbraio. Cristian da Verona ci scrive subito: io ho già fatto e registrato il preliminare, ma il rogito è a marzo 2011. Devo fare anche questa nuova certificazione? Avvocato Gian Cristoforo. La risposta è una risposta difficile. Come giustamente ha anticipato lei, il governo avrebbe dovuto entro l'anno, prima 6 mesi, poi un anno, quindi entro luglio di quest'anno, emanare i decreti. Ciò non è avvenuto, e non è avvenuto violando di fatto una norma dello stesso governo che stabiliva un anno il termine per riordinare la materia. Siamo quindi in una situazione, come giustamente diceva lei, molto farraginosa, molto complessa. Una certezza in ordine all'entrata in vigore di questo obbligo oggi non l'abbiamo assolutamente. Si tratterà di capire cosa e quando il governo intenderà fare, cosa farà nella realtà, ma soprattutto a chi si applicherà questa nuova certificazione. È indubbio che si applicherà alle case di nuova realizzazione. Ora, il termine di nuova realizzazione è anche qui molto generico. Gli ascoltatori credo che ben capiranno che ci sarà uno spartiacque che potrà essere quello del rilascio della concessione edilizia, ovvero del momento del rogito, ovvero del termine dei lavori. Per cui ad oggi quello che possiamo consigliare agli ascoltatori è quello di pretendere certamente dai costruttori che rilasciano una certificazione acustica sulla base di quello che è il DPCM 512/97. Perché ad oggi questo DPCM, seppur sospeso, e anche qui poi dovremmo capire anche con ingegner Borghi se questo DPCM è di fatto sospeso oppure no, ma gli acquirenti, per tutelarsi, per avere delle case più silenziose, dovranno pretendere dai costruttori un collaudo in opera, quantomeno che rispetti come minimo i valori stabiliti nel DPCM. Quindi insomma brancoleremo nell'incertezza ancora probabilmente per qualche mese, e allora, anche per tranquillizzare gli ascoltatori, sicuramente seguiremo l'evoluzione anche del percorso legislativo, se si concretizzerà prossimamente, per dare loro tutte le indicazioni sul corretto comportamento da seguire qualora appunto si vada ad acquistare una casa. Chiaramente il rapporto con un costruttore poi peraltro è di un certo tipo. Se la compravendita invece scatta tra privati, là allora l'ambito, avvocato, diventa un pochino più complesso. Mediamente gli imprenditori, comunque edili, sono un po' più preparati, no? A recepire, ad accogliere, non sempre, tutte le novità normative. Brava, però, esatto, non sempre. Mi piace, perché gli imprenditori dovrebbero essere preparati, tanti lo sono, purtroppo altrettanti non lo sono, o magari, lo dico un po' in maniera provocatoria, non lo vogliono esserlo, nel senso che la norma c'è ed è in vigore dal 20 febbraio del 98, il DPCM. In questi anni si è costruito molto, ma si è costruito molto e anche molto male, soprattutto dal punto di vista acustico. Non costa poi molto, i costruttori si trincerano dietro al fatto che alcuni costruttori, ovviamente non facciamo, è tutto un'erba un fascio. No, ma certamente ci mancherebbe. Si trincerano dietro al fatto che è costoso realizzare un'unità o più unità rispettando il TPCM. In realtà ciò non è vero, l'incidenza di un isolamento acustico corretto è minima quando si è in fase di costruzione. Diverso poi è dover sistemare un'abitazione già costruita e che non è a norma. Ma in fase di costruzione i costi sono ridotti e, ripeto, credo che l'ingegner Borghi su questo potrà essere molto più preciso. Infatti, allora, siccome io devo già andare nella nostra prima pausa, non inizio per niente la conversazione con l'ingegner Borghi, l'ho invitato qua addirittura a Milano, spero che non mi consideri una maleducata, ma le vorrei far fare anche un discorso esaustivo senza cominciare poi a interromperla brutalmente di nuovo. Di fatto le comincio ad anticipare già qualche domanda di qualche ascoltatore, una addirittura chiede se può autocertificare la quarta classe, che credo come per la energetica sia la più bassa, dice sono a livello minimo, quindi posso farlo da solo, vedremo. Il collaudo rispetto alla certificazione energetica è un'operazione un po' più complessa, per cui bisognerà essere molto chiari anche su questo. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Ritorniamo tra pochissimo. Oggi è Salva Danaio, siamo ritornati sulle tematiche della casa per parlare della certificazione acustica degli immobili del nostro paese, e potrebbe arrivare l'obbligo di allegare questa documentazione anche prossimamente ai Rogiti. Allora, come si sta muovendo la legislazione, da che cosa arriva tutta questa novità? Ne stiamo discutendo con un tecnico che non ho ancora fatto parlare, l'ingegner Matteo Borghi dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, e l'avvocato Andrea Giancristofaro, avvocato appunto in Varese, anche esperto peraltro delle tematiche legali per la stessa associazione. Segnalo solamente il nuovo record dell'oro a $1,296,50 l'oncia e l'euro che continua a salire sul dollaro, siamo ormai a ridosso di 1,34 dopo il successo dell'asta di questa mattina di titoli di Stato in Portogallo. Allora, ingegner Borghi, le leggo subito questo messaggio perché mi dà il là alla domanda che le volevo fare per aprire la conversazione con lei. Queste certificazioni sono tasse vere e proprie di successione, perché devo comunque spendere soldi sia per certificare sia per adeguare, pena la svalutazione dell'immobile. Allora, questa considerazione, che è un po' polemica appunto del nostro ascoltatore, forse ci dà la misura di quanto ci sia, non dico confusione, ma forse sottovalutazione del problema dell'acustica di una casa, perché quando io vado a sceglierla, magari mi occupo un po' dell'estetica, forse quello del tema del rumore è un tema del quale ci si occupa un po' meno. In che condizioni abbiamo il patrimonio edilizio nel nostro paese, che è molto vecchio, abbiamo delle bellissime città, ma insomma abbiamo, immagino, non certo mura di cartapesta, sì, certo. Però insomma, ecco, è un tema sul quale forse c'è stata poca sensibilità fino a questo momento. Sì, è proprio come dice lei. Per la verità, la questione dell'isolamento acustico degli edifici generalmente è un problema che viene percepito dopo aver acquistato casa e dopo essere entrati nell'appartamento. Quando uno visita l'appartamento appunto per acquistarlo, vede, come appunto lei accennava, giusto la parte estetica, senza rendersi conto di eventuali problemi di rumore che possono venire dopo, anche dopo alcuni anni, perché magari quando l'acquisto nessuno sta abitando al piano di sopra. Dopo l'appartamento viene venduto, inizia a percepire il rumore da calpestio. Un mio amico ha comprato una casa di nuova costruzione, si è accorto abitandola dopo 20 giorni, che praticamente 20 giorni quasi immediatamente, si è accorto che praticamente lo sciacquone di quelli di sopra si sentiva completamente come se stesse lui tirando l'acqua del bagno. Ha subito contestato, il rogito già avvenuto, ha bloccato tutto, quindi voglio dire. Ovviamente, perché come accennava anche l'avvocato Giancristofaro, allo stato attuale esiste una legislazione, che è il DPCM 512 del 1997, che impone specifici limiti di isolamento per varie tipologie di rumore: il rumore degli impianti, l'isolamento di facciata, il livello di calpestio e l'isolamento anche rispetto a differenti unità immobiliare. Insomma, le pareti, divisorie tra unità immobiliari devono essere in grado di attutire in maniera adeguata i rumori aerei che provengono da vicini, le pareti e anche i solai. Quindi non è che non devo sentire, ma le pareti devono garantire un certo livello di isolamento rispetto alla televisione del vicino, alla radio, alle urla dei vicini, eccetera, eccetera, certo, eccetera. Per quanto riguarda quindi questa nuova norma, che appunto, come già accennavo, ad oggi non c'è ancora niente di certo, nel senso non si sa quando questa nuova norma tecnica diventerà di fatto una legge dello Stato, ma ad oggi dal mio punto di vista e anche dal punto di vista dell'associazione di ANIT, la nuova norma UNI è da vedersi più come un'opportunità, sia per chi acquista che per chi vende una casa, nel senso che l'acquirente in un edificio di nuova costruzione può permettersi, se lo vuole, di richiedere al costruttore di certificare le prestazioni acustiche della casa che lui andrà ad acquistare, per sapere, di che morte dovrà morire. Certamente. Oppure appunto le prestazioni dell'edificio esistente di nuova costruzione. Quindi, per chi la definisce un po' la tassa di successione, io vorrei proprio ribadire questo aspetto: ci interesserà o no capire se abitiamo in un contesto particolarmente rumoroso e magari anche proprio dalla tabella nella quale è inserita la nostra abitazione riusciamo a stabilirlo in via preventiva prima di andare a fare un preliminare di vendita, piuttosto che appunto addirittura il rogito. Assolutamente sì, ma io vorrei anche dare un altro spunto, ma a nostro avviso la norma è anche un'opportunità per chi realizza gli edifici. Chi imparerà per primo adesso a realizzare edifici classificati acusticamente ad elevate prestazioni acustiche, certamente potrà vendere una casa con un valore aggiunto che altri non avranno. Certamente. Allora, c'è un tema interessante però che ho letto rispetto alla certificazione energetica che ci serve fare sia ai fini di una vendita o di appunto un acquisto di un immobile, ma anche per fare tutte le procedure. Io ve lo racconto, sto facendo adesso la sostituzione degli infissi, quindi per prendere gli incentivi fiscali sulla riqualificazione energetica della casa, che scadono quelli del 55% a dicembre, ho fatto la certificazione a quel fine là, per cui voglio dire non è che serve proprio solamente per vendere la casa o per acquistarla. La certificazione ha un costo, il collaudo per la certificazione acustica ne ha un altro, e quello magari può costituire un altro deterrente a procedere su questo terreno. Però vi faccio sentire anche qualche considerazione di alcuni ascoltatori. 800 24 00 24, non abbiamo detto, ingegnere, in che condizioni è il nostro patrimonio edilizio, poi lasciamo un po' di suspense su questo, perché per il nuovo è una cosa, ma per il vecchio come siamo messi. Roberto da Savona, buongiorno. Roberto, buongiorno a lei. Roberto, sì. Telefonavo però per un box out, effettivamente. Sono alla fine lavori della costruzione di un box out e chiedevo quindi se anche per questa tipologia di costruzione è previsto questa normativa. Grazie Roberto. Avvocato Gian Cristofaro, ci aiuta lei? Poi chiedo anche all'ingegnere, naturalmente. No, nel box non è previsto. Quindi insomma può entrare anche una motocicletta rumorosissima e magari disturbare un po' tutto il vicinato, ma vabbè, a parte che uno non è che tiene la motocicletta accesa all'interno del garage, ingegner Borghi. Sì, appunto ho precisato che la classificazione acustica riguarda il rumore percepito dentro l'ambiente abitativo, non quanto io disturbo l'esterno. Ecco. E quindi la classe dipende da quello, insomma. Da quello. Quindi per ora diciamo solamente edifici residenziali, non abbiamo box, cantine da certificare dal punto di vista acustico, a meno che la norma, nel momento in cui si adegua a quello che stabilisce l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Se ho un appartamento di fianco a un box, la parete che separa l'appartamento dal box dovrà essere certificata. Quindi è l'ambiente domestico che deve proteggersi dall'esterno. Sentiamo Daniel dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, mi scusate, io mi chiamo Daniel, sono rumeno e abito a Vicenza da una ventina di anni. Sì. Avevo acquistato la casa 4 anni fa, è stata costruita 5 anni fa, sono entrato per primo in questo appartamento. Sì. Vi dico, c'è tantissimo rumore, si sente anche un sacco di acqua, tutto si sente, i muri esterni, i muri. Addirittura io avevo rotto un muro per tirare l'acqua, per mettere l'acqua sul terrazzo, e ho scoperto che muri, questi esterni, che sono 2 esterni, non c'è niente, proprio è vuoto. E noi abbiamo chiamato anche un perito per diverse cose, adesso stiamo aspettando che viene, ma comunque il costruttore quasi quasi per niente non risponde. Io avevo fatto anche per le crepe, per queste cose, ma niente, proprio nulla. Volevo sapere che secondo voi dovrei fare anche per questa certificazione. Vabbè Daniel, diciamo che lei intanto non deve fare niente a meno che non la debba vendere, per cui diciamo il problema si potrebbe porre in un successivo momento. Qui, ingegner Borghi, mi pare che il problema sia un po' più radicale, un po' più ampio, un po' più complessivo di una condizione di questa costruzione che sicuramente ha fatto rimanere un po' con qualche sorpresa chi ci abita in questo momento. Ma dal punto di vista della certificazione acustica, ricordiamo che non è adesso che tutti devono adeguarsi seduta stante, anche se avessimo la norma pronta, ricordiamo che il tema è il trasferimento oneroso, la vendita. Sì, più che altro, ecco, forse il radioascoltatore, diciamo così, gli edifici costruiti fino dal 97 in poi devono rispettare un'altra legge, un'altra norma, non una norma tecnica, ma una legge dello Stato, che è il DPCM del 5 dicembre 97, appunto, che specifica determinati valori limite di isolamento. Poi forse anche con l'avvocato Gian Cristofaro parleremo meglio di questa legge, dell'attuale validità, eccetera, eccetera. Però ripetiamo diciamo che effettivamente la certificazione acustica argomento di oggi, insomma, non riguarda questo tipo di problemi. Avvocato Gian Cristoforo, Daniele lo mandiamo da lei per cercare di stanare quel vecchio costruttore che ha venduto una casa, però adesso, a parte il fatto che ormai insomma sono passati 4 anni e purtroppo queste famiglie evidentemente devono tollerare e sopportare questa situazione, magari il caso di Daniel ci dà anche un po' il presupposto per capire che tipo di, non dico rivendicazioni, ma anche che accortezza dobbiamo adottare quando si acquista anche una casa da nuova, quindi da un costruttore, perché non è detto poi che lì non ci siano delle insidie dietro, delle cose alle quali non fare attenzione, avvocato. Sì, esattamente, la situazione dell'ascoltatore è una situazione purtroppo frequente. Come diceva l'ingegner Borghi, si entra in una unità, dopo un certo numero di giorni, di mesi, a volte anche di anni, si percepiscono i rumori. Ora, la tutela qual è? La prima cosa da fare è chiamare ovviamente un tecnico competente in acustica per far verificare se vi è il rispetto dei parametri di legge. Se i parametri non sono rispettati, a questo punto bisogna andare dall'avvocato e intentare un giudizio nei confronti dei responsabili. Attenzione, i responsabili non sono solo il costruttore, l'impresa che spesso viene identificata quale l'unico capo espiatorio, ma anche il progettista e il direttore dei lavori, coloro, le figure professionali che avrebbero dovuto garantire la corretta realizzazione dell'opera secondo le regole dell'arte e che invece così non è stato. Certo. Sentirei Marina da Trieste perché mi dà modo appunto di soffermarmi anche su un altro aspetto interessante. Marina? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Ok. Sì, io sono Marina da Trieste e appunto chiamavo per un'altra motivazione, forse una considerazione che probabilmente una considerazione mia personale che tutti troveranno sbagliata, però io così la vedo. Cioè io mi trovo a vivere in una casa di fine Settecento più sì. o meno, ci sono nata, quindi ho 53 anni e mezzo, qui ci sono nata, ci sto praticamente da sempre, ho mio figlio che è nato qui, ma ok, io adesso da un po' di tempo avevo preso in considerazione con mio marito l'idea di vendere questo appartamento e di cercare una casetta anche vecchia, una roba così, che a Trieste non è proprio una cosa semplice. Di cosa ha paura Marina? Di che cosa può succedere? Ho paura di tutto, guardi, le spiego subito, cioè certificazione energetica, certificazione adesso questa nuova di rumori, cioè mille cose che sono venute fuori con tutte queste ultime leggi, certo, fanno sì che tu qui non riesci a vendere. Però Marina, lei contestualmente ne comprerà un'altra e rivendicherà dai suoi venditori lo stesso identico trattamento, cioè lei avrà bisogno di una casa che dal punto di vista acustico dovrà essere protetta e disciplinata in un certo modo, così come dal punto di vista della certificazione energetica, non ma crede? Però il punto è un altro, cioè tutte queste cose fanno sì che i prezzi invece che scendere stanno lievitando, cioè io ho questa sensazione di prezzi che crollano, io parlo qui a Trieste e le posso garantire che non è così. Cioè io sono stato ultimamente, mi muovo un pochino, ultimamente 3 mesi fa ero in Sicilia, mi sto chiedendo a Palermo, dove io ho visto nella parte vecchia di Palermo delle cose micidiali, come uno vorrà fare, cosa farà lì? Cioè non, certo. Le case vecchie, certificarle non è semplice, io sono d'accordissimo con questa teoria sulle case di nuova costruzione, questo mi trova perfettamente d'accordo, non sono d'accordo sulle case vecchie. Certo, però voglio dire Marina, non è che la certificazione impone poi per forza di fare certi lavori, ingegner Borghi, chiariamo subito questo equivoco, la certificazione ti dà la pagella, c'è una graduatoria in sostanza, no? Di decibel che è possibile esprimere da quella casa, così come i valori di trasmittanza, se non dico male, per quello che riguarda la certificazione energetica. Non è che poi il tecnico ti dice questa casa è bocciata e quindi devi fare lavori per 50.000 euro, chiariamo anche questo aspetto. No, infatti è proprio così, la certificazione acustica, insomma, lo scopo è quello di attestare lo stato di fatto, nel senso è un documento che certifica la prestazione di isolamento acustico alle varie tipologie di rumori che sono presenti nelle abitazioni, quindi la prestazione dell'edificio in questo momento. Diciamo che la bozza di decreto impone come rispetto dei limiti di legge la classe terza, ma se io ho una casa che è in classe quarta e la vendo in classe quarta non sono obbligato a fare dei lavori per riportarla, certo, poi alla classe è solamente migliore. Come dire, la modalità di comunicare a chi acquisterà questa casa che ha quelle prestazioni, quell'abitazione, poi sarà l'acquirente a decidere che cosa fare, se proteggere ulteriormente l'ambiente, eccetera. Poi Marina, se lei teme che effettivamente questa operazione anche di farsi rilasciare da un tecnico collaudatore questa pagella costi, adesso l'ingegner Borghi ci fa anche il resoconto di quanto chiede, gli facciamo fare un preventivo in diretta, però dopo aver sentito i suggerimenti perché in viaggio. Allora, sentiamo un po' l'ingegner Matteo Borghi, che naturalmente è molto interessato a rispondere alle perplessità della nostra ascoltatrice, che dice: insomma, io abito a Trieste in una casa vecchia del 700, molto bella, sto pensando di venderla, e però insomma qua come faccio a vendere con tutte queste nuove normative alle quali mi devo adeguare? Allora, noi esprimiamoci per il tema di cui stiamo parlando stamattina. Certificazione acustica, abbiamo un ingegnere esperto di questi temi che fa il collaudatore e quindi arriva armato di trapano ovviamente all'interno delle case, non per fare i buchi sui muri, ma proprio per sottoporle a tutto lo stress possibile e capire quanto ovviamente le mura sono in grado di proteggere da rumori molesti l'esterno. Come avviene il collaudo, ingegner Borghi, e soprattutto poi quanto ci costa, anche se immagino che sia difficile stabilirlo in via prioritaria, bisogna vedere ogni singola unità immobiliare, credo. Sì, esattamente, la seconda domanda, la risposta è molto difficile. Partiamo dalla prima. Come avviene un collaudo acustico? Allora, un tecnico, in Italia in particolare un tecnico con la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, deve uscire presso l'appartamento da classificare con una specifica strumentazione e rilevare appunto tutti le possibili tipologie di rumori. Quindi, come accennavo prima, è il rumore degli impianti, semplicemente si attiva l'impianto dei vicini e con un fonometro si rileva quanto rumore passa. Proprio detto in due parole, non è proprio così automatico, diciamo che ogni rilievo porta via, anche qui molto spannometricamente, almeno un'oretta di tempo allestire la misura, eccetera eccetera. Poi si tratta di rilevare l'isolamento ai rumori aerei tra differenti appartamenti. In questo caso bisogna avere una specifica sorgente di rumore, una cassa acustica che emette una specifica tipologia di rumore. Io di fatto misuro quanto rumore c'è nell'ambiente emittente, quanto ne rientra in casa mia nell'ambiente ricevente, e dalla differenza dei rilievi insomma si ricava l'isolamento delle partizioni. Poi è particolare interessante l'isolamento al calpestio. In questo caso si ha a disposizione una macchina, una sorgente normalizzata di rumore da calpestio, chiamata calpestona dagli addetti ai lavori, che è una macchina con 5 martelli metallici che viene posizionata sul solaio, la si accende e questa picchia sul solaio, mi sposto nell'ambiente sottostante e misuro quanto rumore passa. Per e fortuna, quindi, questa macchina non rovina generalmente nei parchi e nelle piastrelle. E ci mancherebbe, se no dovete pure pagare i danni. Insomma, quindi potete capire quante situazioni differenti possano esserci se si abita all'ottavo piano e sopra abbiamo le soffitte e non abbiamo niente. Se si abita al primo e sotto non c'è niente, se si abita invece praticamente al quarto abbiamo appartamenti sopra, sotto, da una parte e dall'altra, l'ascensore come in casa mia per esempio che mi passa accanto ad una parete, quindi è chiaro che abbiamo una miriade di situazioni che non consentono di poter dire quanto costa un collaudo, perché ma c'è una tariffa minima almeno, ingegnere? No, è molto difficile da dire. Poi anche in varie regioni d'Italia, appunto per la percezione che abbiamo noi come ANIT, si hanno prezzi veramente molto differenziati. Certamente quello che è necessario sottolineare: un collaudo acustico è un'operazione complessa e quindi non ci si può accontentare di misure insomma fatte in pochi punti. Esatto, eccetera, poi guardiamoci anche dal tecnico che ci dice: guarda, te la faccio online, come capita per qualche certificazione energetico, proprio... dammi tre caratteristiche della casa e ti rilascio la certificazione e ti faccio spendere 100 euro. Non è così, insomma, se ci teniamo alle nostre abitazioni abbiamo ne cura anche su questi aspetti. Sentirei un altro paio di ascoltatori, poi ritorno dall'avvocato. Fabrizio D'Alecco, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io volevo intervenire chiedendo qualcosa sulle case singole, nel senso che le case singole hanno delle problematiche completamente diverse rispetto agli appartamenti, sia per il calpestio, sia per i rumori infrapareti confinanti. Questa era una prima domanda. Un'altra considerazione è che se non viene limitata alle case, alle nuove costruzioni, questa norma è veramente micidiale, nel senso che è impossibile isolare acusticamente un immobile già costruito negli anni, nel senso che isolarlo da calpestio, dai rumori di impianti, vuol dire rifare completamente l'immobile. Mi sembra, io spero che non passi come è stato prospettato, oppure Fabrizio, lo so, oppure che passi magari con una certa elasticità, gradualità, con delle deroghe. Avvocato Gian Cristoforo, abbiamo già capito quelle che sono le perplessità generali, forse questa norma e questo adeguamento alla norma dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione sta arrivando con ritardo, proprio perché tutti questi rilievi probabilmente il legislatore li conosce. Sì, l'ascoltatore riconosce, sicuramente questa norma sarà una norma applicabile alle nuove unità. Mi pare però, leggendo velocemente la Uni, che più o meno, non vorrei adesso essere smentito, ma qui l'ingegner Borghi mi potrà dare una mano, i valori mi pare che siano più o meno gli stessi del DPCM. Per cui di fatto... Per l'abitazione singola citata dall'ascoltatore, sta dicendo? No, sto parlando in genere. I valori sono di fatto valori simili al DPCM. Per cui di fatto già l'esistente quantomeno dal 98 ad oggi doveva già rispettare queste norme. È chiaro che intervenire su un immobile se non dovesse rispettare il DPCM e quindi mettere la norma comporta dei costi enormi, ma soprattutto dei disagi enormi, su questo non c'è dubbio. Ma infatti, no, tra l'altro, ingegner Borghi, adesso non abitiamo mica in palazzi di cartapesta o di cartongesso, voglio dire, abbiamo anche delle mura qualche volta molto spesso, molto bene. Cioè, dove secondo lei ci sarà più bisogno di intervenire? E quindi anche per sgombrare un po' di paure da chi ci ascolta. Sì, prima una precisazione necessaria, il cartongesso ha ottime prestazioni acustiche, quindi se costruito bene, assolutamente. E forse meglio, insomma, il cemento armato. Chi si occupa di acustica edilizia, insomma, è una soluzione tecnologica che funziona molto bene. Al di là di questa battuta, diciamo che il patrimonio edilizio esistente in Italia, effettivamente, soprattutto quello costruito prima del 97, ha prestazioni acustiche piuttosto scadenti, insomma, se paragonato con diciamo così palazzine di altri paesi europei. Questo come indicazione di carattere molto generale. La norma del 97, la legge, il nuovo invece, anzi, come lo stanno facendo? Appunto, lei che proprio questo, da quando è uscito la legge del 97 c'è stata una maggiore attenzione da parte dei costruttori, specialmente negli ultimi direi 5-6 anni, per isolare meglio gli edifici di nuova costruzione, e quindi si è proprio assistito a negli ultimi 5-6 anni un drastico miglioramento delle prestazioni acustiche. Allora, ripeto, vediamo questa norma tecnica proprio con questo spirito. Si potrà tendere a edifici sempre con prestazioni migliori, quindi come qualcosa appunto di positivo. Questa insomma le indicazioni, l'esistente di un po' di anni fa, prestazioni acustiche diciamo forse anche peggiori, in molti casi certamente peggiori della classe quarta imposta dalla norma tecnica. Negli ultimi anni insomma abbiamo raggiunto prestazioni della classe quarta, terza e speriamo in futuro la seconda o la prima. Allora, non ci facciamo comunque la testa prima di vedere la norma, avremo ancora diversi mesi di tempo. Io intanto ringrazio l'ingegner Matteo Borghi di essere stato con noi, a presto, perché la trasmissione di oggi mi è piaciuta molto, la dobbiamo rifare naturalmente in tempi molto rapidi e insieme naturalmente non ce lo faremo mancare il ritorno dell'avvocato Andrea Giancristofaro. Grazie, grazie, a presto. Grazie a voi. Allora, ci sono alcuni ascoltatori che non sono riusciti a far intervenire, scriveteci perché io sia all'avvocato che all'ingegner Borghi giro le vostre domande e naturalmente mi aiuteranno anche a rispondervi. Nel frattempo Salvadanaio torna domani da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti.